la sua felicità. E chi è felice quando qualcuno lo viene a prendere ai tornelli dell'entrata? Felicità e restare vicini come bambini. E lei quindi è stato felice che qualcuno l'abbia recuperata ai tornelli? Felicissimo, felicissimo, una felicità reale, no? Vicino di più nell'acqua del fiume che passa e che va. Noi siamo felici che inizi un programma condotto, inizia sabato e poi ci sarà anche domenica. Chiedimi se sono felice. La felicità. Uno spottone per il programma, prego. Uno spottone, chiedimi se sono felice. Infatti c'è anche allora un'informazione di servizio, ma io non sono svegliissima, non riesco a fare, in questo sono molto maschile, non riesco a fare due cose insieme. La nostra canzone d'amore che fa come Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Tutti al mare, tutti al mare, a mostrare le ghiappe, ghiare. Allora, effettivamente con il caldo africano che abbiamo qui nel nostro studio del padiglione Cibus e Italia da Expo Milano 2015 verrebbe quasi voglia di denudarci. Eviteremo questo spettacolo per tutti gli avventori del nostro stand, ma con il caldo africano che è arrivato negli ultimi giorni tutti più o meno abbiamo un chiodo fisso. Come ci piacerebbe mettere i piedi al fresco, stare rilassati in spiaggia, prendere la tintarella gustando una bella bevanda fresca? Allora, i più fortunati sicuramente potranno farlo nel weekend, i più sfortunati dovranno rimanere in città. In ogni caso, questo è il periodo dell'anno in cui caldo africano, caldo sopportabile che siano, diamo un'occhiata anche a quanto ci costa una giornata in spiaggia con gli amici o la famiglia. Ombrellone, lettini, tutto quello che serve. Che budget è necessario quest'anno per goderci una giornata di mare? Sapete che le associazioni dei consumatori in questo periodo sono sempre molto attive nel stimare costi e fare qualche preventivo, così fare qualche conto in tasca appunto a tutte le persone che andranno in spiaggia. C'è chi sostiene che i prezzi sono stabili rispetto agli ultimi anni, c'è un'associazione dei consumatori, poi vi leggo il loro responso, che invece dice che sono prezzi in aumento. A noi quello che interessa è capire voi, ascoltatori, amici di Cuore e Denari, quanto siete disposti a spendere, quanto vi è stato chiesto, se avete già provato a trascorrere una giornata in spiaggia, a prenotare una cabina per la bella stagione. Iniziate a raccontarcelo, magari fatelo già se siete già lì dalla vostra spiaggia preferita. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione, ne parleremo nella prima parte del nostro programma. Nella seconda parte oggi mi sono nicolettizzata per appunto la pagina dedicata alla salute. Facciamo un bilancio del nostro reality Cuore Denari Expo insieme al nostro dottor Attilio Speciani. Vogliamo sapere da voi, che ci avete dimostrato un altissimo gradimento per la nostra iniziativa, cosa avete imparato, cosa avete appreso, assimilato dalle storie dei nostri partecipanti, quale state seguendo in particolare fra gli 8 candidati che ormai hanno avviato, e c'è anche chi ha concluso il proprio percorso. Diteci anche quale dei consigli che i nostri coach vi hanno suggerito vi risulta difficile da seguire o addirittura non gradito. Anche in questo caso 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi, e se oggi non avete ancora programmi per pranzo o per cena, consultate le nostre ricette nella pagina dedicata al nostro progetto. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. Strategia stessa spiaggia, stesso mare per l'estate 2015, avete fatto lo stesso nei confronti e avete fatto dei confronti, scusate, sul prezzo da pagare per una giornata al mare, sui servizi che vi vengono offerti. Questo è il tema, come vi anticipavo poco fa, che oggi riguarderà la prima parte di Cuore Denari, chiedendo naturalmente anche il vostro contributo all'800 24 00 24. Come vi organizzate? Cercate la spiaggia libera? Avete uno stabilimento di fiducia? Pagate un ingresso ogni tanto oppure prenotate una cabina per tutta la stagione? Un aumento dei prezzi vi ha fatto rinunciare e cambiare programma per queste vacanze? Scriveteci anche, ci terremo molto. Se siete gestori di uno stabilimento balneare, naturalmente avete la radio accesa, di cui possono godere tutti gli avventori del vostro stabilimento, ben sintonizzata su Radio 24 e su Cuore Denari. Oggi vogliamo anche raccontare in che situazione si trova per voi l'estate 2015, in che situazione si trova la vostra categoria. Intanto certamente ce lo racconterà Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Balneatori, che saluto. Buongiorno Tomei. Buongiorno, buongiorno, grazie. E naturalmente buona estate anche a lei. Altrettanto lo stesso augurio rivolgo anche a Pietro Giordano, presidente nazionale di Adiconsum. Le associazioni dei consumatori non vanno mai in vacanza, giusto Giordano? No, anzi in estate ancora di più. Siete sempre... perché è il momento in cui, come dire, i raggiri e si abbassa la guardia, e quindi è più facile essere presi in giro dai ci rilassiamo un po', per cui, come diceva adesso, speriamo di no, insomma, però la guardia non si abbassa mai, giustamente dice Giordano. Allora Tomè, volevo cominciare subito con lei, prima di andare un po' a scandagliare la questione dei prezzi praticati dagli stabilimenti quest'anno, ma soprattutto andare a monitorare tutte le varie iniziative che ogni gestore di stabilimento mette in atto per fidelizzare la propria clientela oppure attirarne dell'altra, volevo invece ritornare su un punto sul quale in realtà quest'anno torniamo quasi sempre, perché non ha ancora una risoluzione definitiva. Mi riferisco alla questione delle concessioni demaniali. È importante questo aspetto perché non riguarda solamente l'attività di voi professionisti, ma poi nel modo in cui viene gestita chiaramente ha delle ricadute anche sugli utenti, no? Che frequentano, certo, i vostri, certo, stabilimenti. Le concessioni demaniali, dicevo, i periodi di licenza con cui agli stabilimenti vengono dati in concessione i tratti di spiaggia, per dirla in modo semplice e farla capire subito ai, sì, nostri ascoltatori. Certo. Qual è la situazione di quest'anno? C'è questa direttiva europea, si chiama direttiva Bolkestein, che vi sta creando non pochi problemi. Ci fa un riassunto della situazione? Sì, noi in questo momento siamo in sintonia con la proposta che il governo sta trattando in Europa con la Commissione, ossia il cosiddetto doppio binario, un periodo transitorio che possa traghettare più avanti le attuali imprese e, compatibilmente con i principi europei, aprire le gare ad eventuali nuove concessioni demaniali. In questo momento siamo insidiati da due pronunce di due TAR regionali italiani che mettono in discussione la stessa proroga ottenuta già nel 2012, che traghetterebbe fino a un orizzonte minimo al 2020 le attuali imprese. E attendiamo due pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea, dove ci sono i nostri ricorsi e anche il ricorso dell'Avvocatura di Stato. Insomma, dobbiamo ancora lottare parecchio, però continuiamo perché si possa tentare di dare la possibilità di esistere alle attuali imprese e di aprire nei tratti ampi di costa liberi in tutta Italia a chi vuole impiantare una nuova impresa. Certo. Tomei, in che modo l'applicazione di questa direttiva e tutta anche la situazione che lei ci ha spiegato fino a poco fa, una incertezza, questa incertezza sui periodi di rinnovo delle concessioni rappresenta anche un po' la causa di un servizio di minore qualità offerto ai clienti? Perché vi mette in questa situazione, sì, appunto, di, sì, difficoltà? Certo, perché nel momento in cui un'impresa, in questo caso quella balneare, ma è un discorso che vale per tutti, non ha la certezza di poter continuare a esistere, si riducono gli investimenti. E questo depone negativamente per quanto riguarda potenzialmente l'offerta dei servizi, ma io qui dico guardando in avanti, perché dai dati che abbiamo noi, dal monitoraggio che effettuiamo settimanalmente, diciamo attualmente tutti i servizi di qualità ci sono, è più un rischio in prospettiva futura, tenendo conto che ogni impresa balneare ogni anno come investimento ordinario effettua un 15-20 mila euro di spesa per poter riammodernare il tutto, e questo ragionamento, questo investimento si è fermato e tende a fermarsi in prospettiva. Noi oggi ci troviamo bene, nel 2015 ci troviamo bene perché gli investimenti bene o male si continuano a fare, rallentano, ci sono stati degli interventi importanti anche nel lustro precedente, e quindi oggi il livello è veramente eccellente, invidiato peraltro in tutto il mondo. È un sistema balneare attrezzato come quello italiano, non si riscontra in nessun'altra nazione del continente, del panorama continentale. Tomè, lei dove ce l'ha il suo stabilimento, così la veniamo a trovare? Io non ho lo stabilimento mi occupo da 30 anni come rappresentante sindacale di questo settore, però li conosco quasi tutti nei tre mari, Ionio, Tirreno e Adriatico, e posso dire che oggi noi in tutte le coste italiane abbiamo raggiunto un livello standard diciamo eccezionale, che riesce a dare dei servizi alle famiglie e a tutte le esigenze del tempo libero, dell'intrattenimento, oltre che sotto il profilo enogastronomico. Allora, io naturalmente chiedo ai nostri ascoltatori se sono d'accordo, ma non abbiamo nessun motivo naturalmente per dubitare delle parole di Cristiano Tomei, visto che la nostra Italia la conosciamo benissimo, anzi forse non abbastanza per la verità. Qualche volta scappiamo dal nostro paese, andiamo all'estero alla ricerca magari di lidi più esotici e differenti, ma sappiamo molto bene appunto che meraviglie abbiamo qua anche nel nostro paese. Certamente poi la qualità degli stabilimenti non è uguale ovunque. Io lo devo dire, Tomè, adesso qualcuno mi odierà, che sono marchigiana, frequento quella spiaggia là da tutta la vita, su qualche tratto qualcosa da ridire, perché secondo me invece un po' hanno lasciato andare, potrebbero puntare un po' di più sulla qualità di determinate aree, ma poi magari questo glielo racconto in privato. Detto questo, sentirei Aldemiro dalla provincia di Matera, per poi andare alle associazioni dei consumatori, e naturalmente per gli ascoltatori il numero verde è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. Aldemiro, benvenuto. Benvenuto e bentrovate pure voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Condivido in pieno quello che hai detto, cioè che l'Italia è ricca di queste eccellenze, soprattutto in tema di turismo. Non per niente il Salento o la costa ionica, voglio dire, sono diventate un po' teatro importante per il turismo anche. Io volevo dire che per Metaponto, noi abitualmente il lido di Metaponto è la nostra spiaggia preferita, dove abbiamo anche una piccola struttura, e quest'anno oltre ad aver trovato una spiaggia molto più larga per effetto dei lavori che hanno fatto la barriera Flangiflussi, non abbiamo trovato nessuna variazione di costo rispetto all'intera stagione. Quindi io le parlo maggio, giugno, luglio, agosto e parte di settembre, noi continuiamo a pagare 450 euro l'anno, ed è un lido di tutto rispetto. Certo. Grazie Aldemiro per la sua testimonianza, e probabilmente il gestore di quello stabilimento invece qualche soldino sul piatto, no, Tomei, l'avrà messo per continuare a garantire una qualità dell'area che gestisce all'altezza appunto degli anni precedenti. E questa è una categoria di imprenditori, piccoli imprenditori, molto appassionata e molto attaccata al proprio lavoro, poi alla fine si corce sempre le maniche della camicia, e quello che si deve fare si fa. E quel prezzo che ha indicato l'ascoltatore è un prezzo medio standard che corrisponde a verità. Oggi ci sono dei prezzi sicuramente anche più alti, però guardando a un turismo di carattere familiare, con quel prezzo si riesce tendenzialmente a poter avere un ombrellone per tutta la stagione. Certo. E che cos'altro? Un paio di lettini, che cosa ci mettiamo anche sotto, Tomei? Tanto per avere anche un riferimento preciso. Due lettini ci vogliono, cioè sono necessari, o una sedia a sdraio, comunque ci sono tanti altri servizi che poi danno la tranquillità anche alle famiglie per quanto riguarda i piccoli. Penso al salvamento, penso alla pulizia delle spiagge che viene fatta di notte, la mattina c'è il doppio passaggio, insomma c'è un'attenzione, una cura che noi in altri paesi, soprattutto nord europei, laddove si possa andare al mare climaticamente, non riscontriamo assolutamente. E questo, diciamo, è il salotto del mare, il salotto naturale che si contraddistingue in modo eccellente e positivo. Allora, Pietro Giordano, intanto le leggo un po' di lavori fatti dalla concorrenza. C'è ogni anno l'Osservatorio Nazionale della Federconsumatori che elabora questo monitoraggio sui costi dei servizi balneari. Loro parlano di un aumento complessivo medio di circa l'1,2% dei prezzi praticati sulle spiagge nei lidi italiani. Crisi economica e calo delle presenze, dice questo osservatorio, hanno tenuto sotto controllo i prezzi e hanno determinato un aumento estremamente contenuto dei costi relativi agli stabilimenti balneari, per cui qualche area evidentemente sarà stata ferma nei prezzi, qualcuna li avrà abbassati, qualcuno avrà alzato. Tutto questo porta a questa media. È un po' più severo invece il bilancio rilasciato da ADOC, che parla di aumento negli stabilimenti balneari di circa il 3%. Segnalo che gli ascoltatori stanno dicendo invece qualcosa di diverso, che stanno ritrovando i prezzi negli ultimi anni. Adiconsum ha già fatto le sue stime? Sì, ma c'è un assestamento, ma niente, non infatti. Si sono spostate rispetto agli altri anni. Poi se si vuole a tutti i costi trovare un aumento, ma è sempre la media di Trilus, nel senso che, esatto, come diceva lei, ci sono alcuni che aumentano perché magari mettono qualche servizio in più e quindi c'è un miglioramento della qualità, e alcuni che abbassano perché magari la stagione precedente non è stata. Questi scostamenti, a mio avviso, non smuovono realmente le tasche delle famiglie. Chi è disponibile a spendere 450 euro non credo che l'1% che rappresenta 4,5 euro, come dire, certo, sposta molto il budget, il bilancio familiare. Quindi sono spostamenti che magari vengono messi lì, ma non hanno la verità è che ormai, ma non solo da quest'anno, è un po' di anni che il prezzo è, come dire, è costante, esatto. È logico che ci trovi le differenze rispetto alla località, certo. In Liguria arrivi anche a superare i 100 euro, nel sud in particolare la Puglia con 15 euro il famoso ombrellone con i due lettini trovi abbondantemente anche in Calabria, è vero. Anche in Calabria. Lei prima, quando l'ho presentata, no, abbiamo fatto questo, abbiamo sorriso un po', raccontando del fatto che naturalmente le associazioni dei consumatori monitorano un po' tutto costantemente, non possono mai abbassare la guardia, bisogna sempre fare attenzione ai potenziali raggiri. Allora, questa è una parola che non ci piace, ma secondo lei, in un frangente come questo dell'anno, andando appunto in spiaggia, negoziando con il gestore dello stabilimento balneare, a che cosa dobbiamo stare attenti naturalmente per poterci godere una giornata di mare con un rapporto anche qualità e prezzo rispetto al servizio che ci viene offerto adeguato, senza naturalmente preoccuparci di raggiri, ma andiamo un po' alle precauzioni da adottare per non doverci svenare dopo una giornata di mare dal punto di vista economico. Intanto dobbiamo stare attenti che non ci sia il pagamento per accedere al mare, perché anche chi non vuole prendere il famoso lettino, i famosi lettini con l'ombrellone, deve avere l'accesso al mare, e questo è un diritto che ogni bagnante ha e ogni persona ha, quindi questo alcuni, sempre di meno devo ammettere, alcuni stabilimenti balneari hanno fatto nel tempo i furbi, non comprendendo che invece chi passa dallo stabilimento balneare magari ci passa per fermarsi un attimo al bar e prendersi una bibita fresca, e quindi è un guadagno in ogni modo che viene realizzato. Mm-hmm. Bisogna stare attenti appunto che ci sia il livello di servizio e che il servizio non venga, quindi i costi diretti, ad esempio, come dicevamo, i 15 o i 100 euro sono una cosa, bisogna stare attenti che i costi indiretti non lievitino, cioè che una bibita, non diciamo nome perché se non facciamo pubblicità, l'anno precedente costava un X e ora costa un X più un tanto ancora maggiore. Ma raggiri per gli stabilimenti balneari io non ne vedo granché. Bisogna stare attenti ad esempio che non ci sia in qualche modo l'impedimento alla battigia. Questo è un diritto, io capisco che chi paga magari questa cosa non lo garba molto, ma l'accesso alla battigia e quindi anche lo scambio di chi non paga l'accesso e chi non paga il cosiddetto ombrellone, questa cosa è un diritto Benissimo. Di tutti i consumatori e questa cosa dobbiamo preservarla, perché ricordiamoci sempre, a proposito della questione delle concessioni, quello è tutto, il demanio è un'opera, è una realtà pubblica, viene data in concessione, ma la proprietà è sempre pubblica, quindi il diritto dei cittadini rimane intatto, bisogna però regolamentarlo in maniera efficiente, vediamo dopo la Bolkestein che cosa succederà. Ottimo, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande su questo tema del pagamento dell'accesso alla spiaggia, anche quando non si vuole fruire di un ombrellone con il lettino dopo la borsa. Sentiremo anche il commento dei diretti interessati, dei balnatori, con Cristiano Tomei. Come promesso ieri, dopo la pubblicità appunto ai mercati finanziari, faremo anche un piccolo commento con Angelo Vaira sul tema degli animali in spiaggia. Ci sono molti ascoltatori che sono molto affezionati a questo argomento, li portano sempre con sé e qua dobbiamo andare anche a caccia di quelle spiagge che naturalmente consentono l'accesso anche agli animali nel rispetto pieno di tutte le persone che chiaramente frequentano i nostri litorali. Abbiamo anche Hermes dalla provincia di Mantova, Carlo da Milano, quante cose da fare dopo i mercati, a tra poco. Cuore e denari. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Devo fare il giro alla canzone qua, i tecnici sono impietosi con me, nonostante questo caldo Michele Previato mi pressa con le sue regole della diretta, giustamente. L'estate è un'occasione per riprendere il passo, il caldo toglie un po' la fame, invita a gustare piatti freschi, si ha la voglia di leggerezza, cogliamo l'attimo allora per apportare alla nostra dieta qualche piccola correzione per guadagnare in salute, in energia, perché non rimettersi un po' in forma. Ne parleremo tra poco con il nostro Attilio Speciani, con cui, tirando anche un po' le somme del nostro reality Cuore Denari Expo, che ha permesso ad 8 concorrenti di rimettersi in gioco, seguendo uno stile alimentare nuovo e adattato alle loro esigenze dai nostri coach, potrete ricevere consigli anche per potenziare attraverso le vostre scelte alimentari il vostro benessere. Allora, se siete stanchi, se il caldo vi toglie le forze, se fate fatica a concentrarvi, chiamateci all'800 24 00 24, il nostro numero verde a disposizione anche di chi, andando in giro per saldi in questi giorni, scoprirà nella vetrina del camerino, dopo aver provato magari l'abitino sul quale aveva messo gli occhi da diverse settimane, di avere bisogno di asciugarsi un po', per usare un eufemismo. Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te. Sto accelerando e adesso ormai ti prendo. Mare, mare, mare, sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì. E che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Stamattina mi sento più una DJ che una conduttrice radiofonica, Michele, te lo dico. Allora, tanta voglia di mare questa mattina, Cuore Denari, voi avete già fatto i vostri progetti da spiaggia per l'estate 2015. Il tema di cui stiamo parlando nella prima parte di Cuore Denari, chiedendo naturalmente anche il vostro contributo all'800 24 00 24. Adesso mi sbizzarrisco anche nella lettura dei messaggi, che sono tantissimi. Raccontateci le vostre esperienze degli anni passati, come pensate di organizzarvi questo quest'anno, cercate la spiaggia libera, avete lo stabilimento di fiducia, pagate un ingresso ogni tanto, prenotate una cabina per tutta la stagione. Come sono i prezzi di quest'anno? Fateci il vostro reportage dalla vostra spiaggia preferita. Noi continuiamo a commentare questo argomento con i nostri ospiti di oggi. Abbiamo Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Balneatori, Pietro Giordano, presidente nazionale di Adiconsum. Avevo degli ascoltatori e abbiamo anche un altro ospite da presentare, ma Tomei, volevo farle commentare, perché vedo che in molti scrivono su questo, la questione annosissima della ingresso a pagamento per chi vorrebbe fruire di una fettina di spiaggia libera davanti agli ombrelloni. Che deve fare? Litigare con il gestore dello stabilimento che non lo fa entrare? È una questione ormai abbastanza normata e superata dalla finanziaria 2007. Ci sono ancora alcune realtà dove questo fenomeno avviene e bisogna in qualche maniera vedere se l'ingresso poi è collegato a dei servizi che vengono offerti. È chiaro che laddove non è possibile accedere al demanio attraverso una concessione, ci sia nelle immediate, vicinissime diciamo circostanze geografiche la possibilità di poter accedere lo stesso alla pasticcia. Tendenzialmente io la penso così, che bisogna fare diciamo in modo che ci dobbiamo un po' affidare alla disponibilità, al buon senso del gestore. Dico che bisogna superare anche questo aspetto con un po' di civiltà da parte di tutti, perché nel momento in cui chiunque entra nel demanio marittimo, sia un titolare, sia un utente della balneazione, è importante che si rispettino le regole. Se questo avviene è possibile avere anche quella liberazione, quella libera circolazione di cui parlavamo prima. Molte volte questo avviene anche per la tutela degli stessi utenti che si trovano in spiaggia, perché molte volte bisogna anche, come dire, prevenire in questo modo determinate circostanze. Però io tendenzialmente la mia organizzazione, laddove ci sono delle regole, c'è la prevenzione, è bene che ci sia l'accesso libero diretto in spiaggia. Nello stesso tempo vanno protetti i beni dell'imprenditore, vanno anche protetti, tutelati coloro che si trovano a soggiornare sotto gli ombrelloni. Poi dico io, non è che faranno cartello, qualcuno sarà un po' più disponibile, qualcun altro meno, il mercato è anche questo. Se noi proprio vogliamo entrare in un pezzettino di spiaggia libera che però è immediatamente adiacente ad uno stabilimento balneare, magari ecco, cerchiamo quello che ci fa entrare e che non ci crea problemi, magari quello gestore là perderà un cliente per il caffè e un cliente che va a comprarsi il gelato. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. È arrivata anche una bellissima testimonianza di Marina da Capri. Gli ascoltatori che sono in linea, chiedo un attimino di pazienza perché adesso dobbiamo salutare un grande amico di Cuore e Denari, Angelo Vaira, abbiamo già sentito anche ieri, con varie peripezie. Ieri Angelo, ciao, ci ha raggiunto qui in studio a Cibus Italia, agevolatore della relazione con il cane, mi piace tantissimo questa tua definizione, vero? Da domani... Sì, perché? No, perché non mi sento di rientrare in quella categoria di addestratore, no? Che rendono abile il cane a fare delle cose. Il cane ha una relazione con noi, insomma, ed è su quello che io vado a lavorare. Non va addestrato, ci vorrebbero anche gli agevolatori della relazione con le persone, Angelo. Non è che non va addestrato, va fatto anche quello, però uno quando pensa ad un professionista della comunicazione col cane, del training col cane, pensa subito a rendere il cane obbediente, la macchinetta, cioè, in realtà abbiamo bisogno di una buona relazione con lui. Allora, da domani Angelo, conduttore insieme a Rosita Celentano di Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane, ogni sabato alle 15, ogni domenica alle 10. Angelo, da te vogliamo tre consigli molto pratici per vivere il mare con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono naturalmente gli stabilimenti, le spiagge dove possiamo andare con il nostro cane, quindi prima di partire, magari di pretendere di farlo entrare, informiamoci su questo, facciamo anche noi i civili. Detto questo, arriviamo nella spiaggia che ci è permessa, qualche consiglio per chi porta magari per la prima volta il proprio cane al mare quest'anno? Allora, noi abbiamo intervistato il sindaco di Forte dei Marmi, no? Che è stata una persona che ama i cani e che è veramente stata utilissima. Ci ha detto per esempio che la Toscana, tutta la regione toscana, ha stabilito che i cani possono andare in spiaggia, lasciando al gestore dello stabilimento balneare la regolazione degli orari. Quindi insomma questa cosa di portarsi il cane in spiaggia si sta un po' più sdoganando, no? Sta diventando più flessibile anche la legge, gli ordinamenti, l'ordinanza, scusami. E quindi questo è importante. Però cosa ancora più importante per il cane, non tutti i cani vogliono andare in spiaggia, è importante chiederglielo. Cioè, diceva, come faccio a chiedere, anche io gli faccio una domanda e gli risponde. Non nella nostra lingua. Però se il cane vuole stare in spiaggia, lo vedi perché ha un'espressione felice, si stressa poco, i segnali di stress sono, che so, dissenteria, ansimazione, quando il cane torna a casa diventa somatizza apatico. Somatizza il suo disagio in questa maniera. Assolutamente, assolutamente. Cioè, per esempio, gli viene la forfora, se noi abbiamo un cane con il mantello nero, immediatamente, nel giro di 2 minuti, quando è di fronte ad una situazione stressante, gli viene la forfora. Quindi è un altro modo che possiamo utilizzare per interrogare il cane e chiedere, ma te in spiaggia ci vuoi venire? Perché non ci dimentichiamo che per noi la spiaggia significa vacanza, significa relax, significa divertimento. A volte questo per i cani non succede, cioè avere le persone vicine negli altri ombrelloni è sbaglio, andare nella spiaggia dedicata ai cani dove ci sono quelle spiagge, questo è l'altro consiglio che do, bisogna valutare bene la spiaggia che accetta i cani, magari ci sono gli altri cani così vicini e c'è un sovraffollamento, una gestione da parte degli operatori inadeguata, ecco che si trasforma poi quella giornata in una giornata stressante per il cane, no? Quindi insomma anche questa è una cosa che va tenuta in considerazione, non possiamo prendere il cane, portarlo in spiaggia e basta. Benissimo. Poi se sono in spiaggia, il cane piace, la spiaggia è quella giusta, devo evitare di fare errori come non aver portato la ciotola dell'acqua anche per lui perché avrò bisogno di bere, trascinarlo, ho visto delle scene in spiaggia pazzesche, no? Il cane che viene preso, buttato in acqua per poi ridere, per vederlo annaspare, tornare a riva, no? Sono cose che non vanno fatte. Oppure io ricordo tempo fa, avevo parlato con delle persone che a Ferragosto ci tenevano tantissimo ad andare sulla spiaggia in vacanza e non potevano lasciare il cane a casa, cosa hanno fatto? Questi, dal momento che sono andati lì e gli hanno detto il cane in spiaggia non può andare, non può starci, l'hanno lasciato in macchina, tutto al sole, con i finestrini aperti. Ecco. E loro mi hanno detto, pensavamo sarebbe stato sufficiente, gli abbiamo lasciato un po' di finestrini aperti, quando sono tornati dalla spiaggia il cane era morto. E vedi perché servono anche gli agevolatori della relazione con l'uomo? Ecco, Angelo, grazie. Purtroppo il tempo è a nostra disposizione, ma so che tu avrai modo di parlare per tutta l'estate di questi argomenti. Certo. Per cui in bocca al lupo anche per la nuova avventura di domani. A te Rosita, grazie molte, intanto buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. A presto. Un abbraccio. Allora, sono le 11.46, devo andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Messaggio di servizio a Milano, a Marco e Isotta. Chiedete al dottor Speciani se ha 5 minuti di pazienza perché volevo sentire un paio di ascoltatori ancora sulle spiagge commentare con due battute veloci con Pietro Giordano e Tomei queste testimonianze. Cercherò di fare tutto in 5 minuti. Grazie, dopo il traffico. Cuore e denari. Maccherone, mai provocato, io me ne magno. Cuore e denari Expo. Allora, noi l'abbiamo mandata lo stesso per rinfrescarvi la memoria, perché tra un po' partiremo con la seconda parte di Cuore e Denari. Siamo ancora a Cibus e Italia, il padiglione di Federalimentare presso Expo, e vogliamo concludere questa settimana di esterna parlando del progetto che Cuore e Denari ha realizzato in occasione dell'esposizione universale, con l'obiettivo di tradurre nella pratica quotidiana la filosofia di Expo. Ma chiudiamo il nostro discorso sul tema delle spiagge, le nostre vacanze appunto sulla nostra spiaggia preferita, e allora volevo sentire un paio di ascoltatori velocemente per poi commentare queste situazioni con i nostri ospiti. Rapidissima, voglio che sia Marina da Capri, però questa cosa la volevo proprio sentire. Marina, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Veloce, veloce, grazie. Allora, io volevo fare questa domanda. Entrando in uno stabilimento dove si paga 25 euro circa, è possibile che lo stabilimento eserciti, diciamo, il divieto per i consumatori, per chi entra, di portare dall'esterno un panino, una bibita, e invece di usufruire del loro bar? Nel senso che il bagnino anche va in giro a richiamare qualcuno che si è portato un panino da casa. Marina, a me sembra assurdo, io credo proprio di no. Guardi, le dico, mia sorella ha 3 bambini, va in una spiaggia dove prende l'ombrellone con i lettini, naturalmente lei si figuri se con 3 bambini deve sempre andare per forza a consumare quello che c'è lì. Sarebbe una spesa, ovvio che qualcuno di noi, tutti ci portiamo qualcosa da casa, altro che Tomei, però la voglio sentire su questo. Ci mancherebbe, sono d'accordo. Adesso, io non dico portarsi il primo, il secondo, le lasagne, l'arrosto, torte e come dire imbandire tutta la spiaggia con le proprie cose, però anche qua, no, che dice? Io sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatrice, queste sono delle restrizioni medievali che non possono essere utilizzate, bisogna lasciare libere le persone di decidere, perché i prezzi anche praticati al bar, parlo senza fare nomi di marche, di patatine, serate e bibite, oggi permettono in qualche maniera di accontentare le mamme che portano bambini, nipotini, figli di amici, si danno il cambio molte volte il pomeriggio. E voglio dire, se poi non ci si mette qualcosina che si porta da casa, a volte il succo di frutta, a volte qualche altra cosina, comincia a essere complicato. Quindi accontentiamoci un po' e un po', sia della possibilità che si acquisti tramite somministrazione o tramite prodotti alimentari nello stabilimento balneare, sia qualcosina che si può portare a casa, si guarda soprattutto ai bambini, perché in qualche maniera questo deve essere il 2015, l'anno della riscossa del turismo balneare dopo il maltempo che ci ha colpito per 23 giorni consecutivi nel 2014. Dobbiamo recuperare. Se il tempo tiene così, bisogna dare molta disponibilità soprattutto alle famiglie, alle persone che stanno vivendo un momento di crisi, e bisogna veramente fare sinceramente questo sforzo. Allora, io non riesco a sentire Hermes dalla provincia di Mantova, che voleva lamentarsi di alcune spiagge libere in Italia che sono poco curate, né Carlo da Milano purtroppo, che si lamenta della Liguria, dal punto di vista di alcuni prezzi inaccessibili, lui preferisce andare all'estero. Carlo, è così, per fortuna di disponibilità geografica ne abbiamo tantissima, vi sentiremo in un'altra occasione, se volete andate su Facebook, andate un po' ad animare il dibattito su questo argomento. Volevo concludere, a parte i messaggi che ci avete mandato, che sono tanti, ognuno di voi ci sta mandando i prezzi che sta trovando nel Lido che sta frequentando proprio in questi giorni. Dex da Padova scrive: al Lido di Jesolo nessun aumento da 3 anni, e tante altre cose ancora. Però Massimo da Milano: vorrei sapere se in caso di prenotazione per 10 giorni ci fossero 3 giorni di pioggia, come comportarsi sul pagamento finale. Adesso Pietro Giordano, io vorrei sentire lei, non è che pure come associazione dei consumatori attribuita ai gestori balneari se arriva la pioggia e invitate i consumatori a chiedere persino dei rimborsi se il maltempo non agevola la vacanza. 30 secondi, grazie. La vacanza rovinata non esiste per gli stabilimenti balneari, però la responsabilità di uno stabilimento balneare, se non vuole perdere la sua prima ricchezza che è appunto il cliente, è quello di trovare una soluzione che sia, che favorisca un attimino il tutto. Per rispondere poi l'altra questione, non c'è un divieto di legge, poi se si fa a metà tra le bibite, come riferisco alla precedente ascoltatrice, che si porta i panini da casa, non c'è un divieto di legge, l'accesso è libero, come è libero l'accesso anche per panini e bibite. Poi se c'è il possessore della concessione di balneazione, che è molto bravo, riesce a vendere i suoi prodotti, per gli sta, come è noto, questa è la legge del mercato. Allora, è bravo, se questo gestore si comporta in una maniera che a noi non piace, andiamo da un'altra parte, signori, c'è il mercato, abbiamo tante opportunità. Non sono riuscita ad aprire la parentesi su scontrini, rilascio di ricevute, quelli che ci dicono no, io non sono obbligato a farlo, eccetera, per cui è già pronta un'altra puntata che faremo al più presto con Nicoletta. Intanto grazie a Cristiano Tomei e a Pietro Giordano, saluto subito il nostro Attilio Speciali, buongiorno dottor Speciali. Buongiorno a voi. Ma la sua spiaggia preferita qual è? Perché noi non gliel'abbiamo mai chiesta. Eh no, sulla spiaggia io amo il lago e poi scelgo spiagge diverse ogni volta, proprio perché così evito di incontrarmi con situazioni sfavorevoli. Quando ne incontro una dico vabbè, insomma ne troverò un'altra che sarà migliore, però mi affeziono. il suo dovere di consumatore, insomma, lei lo fa, faccio, oltre lo che di medico straordinario che ci accompagna da tante settimane, ci accompagna, accompagna Nicoletta da tantissimi anni nella sua trasmissione, poi è stato il nostro angelo custode, diciamo, di questo percorso con Cuore Denari Expo che è durato 8 settimane e oggi naturalmente completiamo un po' con un bilancio questo nostro discorso. Lo ricordo, Attilio Speciani è specialista in allergologia, immunologia clinica a Milano e direttore scientifico di Eurosalus, che è andato a curiosare, sa che questa, oltre a tutte le cose che fa, è anche la piattaforma che ha ospitato i nostri questionari attraverso i quali si sono candidati questi 8 temerari che hanno partecipato al nostro reality. Dottor Speciani, ma lei è soddisfatto di come abbiamo vissuto queste nostre 8 settimane? Come medico, che cosa le ha dato questa esperienza, oltre naturalmente al grandissimo piacere di lavorare con me e con Nicoletta? Ma intanto questa cosa la rinforzo, perché devo dire che il piacere ogni settimana di essere lì con voi e di chiacchierare di come il vostro pubblico, perché la cosa bella poi alla fine è che in realtà i questionari che sono arrivati, che sono stati tanti, numerosi, un mucchio di accessi, e devo dire sono legati anche a persone che hanno espresso un certo tipo di modalità di pensare l'alimentazione e la nutrizione, che io dico, mentre ne discutevo con il dottor Giordano, che mi ha aiutato sempre a rivedere sì, i risultati della piattaforma di Eurosalus, dicevo: ma guarda come sono bravi questi qua, si vede che la Nicoletta e la sua fulgida partner sono riuscite a inserire, e la Deborah sono riuscite ad inserire davvero delle comunicazioni, cioè Radio 24 è diventato un punto anche di formazione culturale, certo. Questo lo dico perché da medico il fatto di riconoscere che i punti focali che possono caratterizzare effettivamente le persone che hanno risposto, quando scopriamo che la frutta e la verdura sono davvero gli elementi più mangiati, cioè comunque sono in testa alle abitudini di spesa, che le persone guardano fondamentalmente i valori nutrizionali e poi quindi la composizione di un alimento e anche il costo, perché significa subordino la salute, cioè l'elemento cardinale è questo. Sono persone che, a parte un 23-25% che non muovono una gamba neanche a piangere, però mediamente sono persone che sono in movimento almeno un paio di volte alla settimana, se non anche 3 volte alla settimana, quindi fanno sport. Sono persone che fanno una prima colazione, qui mi ci metto anch'io, qui sono stato il responsabile di qualche spinta comunicativa sulla prima colazione. La rivoluzione della colazione con l'inserimento delle proteine è la cosa che apparentemente sconvolge sempre un po' tutti, dopodiché quando si inizia questa nuova buona pratica in realtà se ne riscoprono molto velocemente tutti i benefici. Dottor Speciani, 20 secondi, poi le faccio... E devo dire che questa cosa, tra l'altro, anche con tutti gli chef che sono intervenuti sì, con noi, la rieditazione in modo gustoso, piacevole e gioioso di questo tipo di ricette è stata poi un'esperienza straordinaria. Credo che poi quando ci risentiamo più tardi avremo modo ancora di raccontarcela. Solamente il tempo del giornale radio, un po' di pubblicità e torniamo tra... Il segnale orario vi è offerto da... Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. Cuore e denari. Sai la forza che ho un insieme oggi qui a Cibus e Italia presso il padiglione di Federalimentare di Expo, lo stand, il padiglione dell'eccellenza dell'agroindustria italiana. Torniamo a parlare di Cuore Denari Expo, il nostro reality che ha voluto portare le linee guida e la filosofia dell'esposizione universale proprio dentro le nostre case. In linea con noi c'è il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano e direttore scientifico di Eurosalus, lo abbiamo ricordato più volte, la piattaforma che tra le altre cose ha anche ospitato i nostri questionari con cui tantissimi di voi si sono candidati a partecipare al nostro reality e alla fine, come sapete, abbiamo scelto 8 profili diversi. E adesso ne risentiremo qualcuno per capire chi ha concluso il suo percorso, come sta, chi è ancora nel bel mezzo del suo cammino verso un miglior stile alimentare, oltre che economico, come stanno andando le cose. Dottor Speciani, io ricordo, intanto faccio un riassunto degli 8 profili, no, che abbiamo individuato per portare avanti questo nostro discorso. C'erano il sedentario, l'over 50, che era il suo, mi pare, no? Fantastico. Ecco, lo stressato, la coppia di conviventi, la donna in gravidanza, la sportiva, il vegetariano e la coppia con figli. Ciascuno con una coppia di coach di riferimento che ha suggerito un programma alimentare in grado di soddisfare esigenze e richieste specifiche, perché naturalmente poi ognuno di questi aveva anche un po' i suoi gusti, per cui anche fare dei cambi radicali delle proprie abitudini non era proprio molto pertinente per queste persone. Dottor Speciani, al di là delle differenze dei singoli casi, mi pare che ci sia stata un'impostazione di fondo condivisa da tutti gli esperti che hanno partecipato a questa nostra iniziativa, e cioè che quello che il cibo manda sono anche dei messaggi al nostro organismo, no? E naturalmente ne condizionano anche un po' il funzionamento. Ma io credo che questo sia uno degli spunti fondamentali con cui oggi la nutrizione sta cambiando, perché davvero il cambio che c'è stato, ad esempio, nelle piramidi alimentari proprio negli ultimi anni, abituati a certi tipi di considerazione classicamente, con grosse quantità di un certo tipo di prodotto piuttosto che un altro, e poi conflitti che ovviamente, poi siamo all'interno di una trasmissione in cui si parla di cuore e denari, no? Quindi si riscontrano poi anche interventi dal punto di vista lobbistico piuttosto che altro, cioè ti rendi conto che ci sono elementi che non sono sempre di tipo salutistico che hanno governato negli anni queste cose. Oggi finalmente si sta scoprendo che sono gli equilibri tra le diverse componenti e un rispetto dell'individualità della singola persona, quindi dei bisogni di ciascuno, a dare delle indicazioni serie. Si stanno scoprendo diversità tra uomo e donna. Io lo sapevo già che erano diversi, però abbiamo confermato insomma queste differenziazioni. Allora però, poi magari ce le indica, proprio ce le individua nella precisione. Recuperiamo anche, dottor Speciani, un po' se c'è stato il fil rouge che ha legato un po' tutti i profili che ci hanno accompagnato in queste 8 settimane, partendo magari dai fondamentali per poi vedere invece se questo fil rouge da qualche parte si spezza. Io credo, visto che tutti, sia gli chef soprattutto, che si sono adattati molto bene alle indicazioni, ma tutti i coach, dallo sportivo al mio ovviamente, che è stato un elemento importante. Poi io devo dire, mi pregio del titolo dei più numerosi, gli over 50 sono stati i vincenti dal punto di vista numerico, però il fil rouge è stato quello di dare valore alla prima colazione, di mantenere sempre un ottimo rapporto con verdure crude oltre che verdure cotte, quindi migliorare l'apporto di fibra dal punto di vista generale, e un equilibrato rapporto con le proteine. Quindi non piatti monotematici, ma ormai rientrando in questo tipo di segnale che vuole uno studio sulla gestione dell'assorbimento. Un po' tutti oggi parliamo di questa frase un po' difficile quando si parla di resistenza insulinica o di migliorare la funzionalità dell'insulina. È quello che ho visto in tutti i colleghi che sono intervenuti come coach, e la capacità di tutti gli chef di adeguarsi a questo tipo di indicazione per cercare di creare un piatto equilibrato che quindi fosse assorbito con lentezza, che potesse essere gustato pienamente e che quindi avesse portato poi in sequenza a non ingrassare fondamentalmente. Che consentisse il controllo dell'indice glicemico. Sono capita pure io, dottor Speciani, santo cielo, la proteina a colazione serve a quello, a farci andare avanti per tutta la mattinata in maniera lucida, brillante nel nostro cervello, anche perché poi quello è fondamentale, e non avere poi questi picchi improvvisi di fame che sono determinati dal fatto che viene a mancare improvvisamente lo zuccherino. Esatto. Ecco. Devo dire che questo è anche uscito, mi sembra, quando abbiamo avuto le comunicazioni con i vari pupils, quindi fondamentalmente con gli adepti, no? Con i vari personaggi che hanno seguito. Esatto. e loro ad un certo momento tutti dicevano: ma mi è cambiato proprio un po' questa specie di famona che compariva alle 11, mi è migliorata la resistenza alla fatica, sono più concentrato. Cioè, come basta poco, perché se pensi che sono delle indicazioni date, voglio dire, A parte che tutti possono andare sul sito di Radio 24 e ritrovare tutte le sequenze che sono ancora presenti, con le ricette, con le indicazioni nutrizionali. Tutto. Bravissimo ad averlo ricordato. Sì. Però davvero, cioè, se pensi che questa cosa nasce da una comunicazione diretta, neanche direttamente personale, voglio dire molto personale perché siamo in contatto diretto verbale, però e la gente ha migliorato e ha capito che loro, la stessa loro famiglia, hanno ricevuto dei vantaggi positivi in termini di benessere e di possibilità di trasmetterlo agli altri. Io adesso cito Pier Mario, che credo per un po' sentiremo, continua a bersagliarmi di Twitter da una parte e dall'altra in modo estremamente piacevole, e si è gasato, seminando il verbo, perché adesso sta andando a fare anche lui una comunicazione sugli aspetti nutrizionali legati allo sport all'estero. Mi ha chiesto delle cose in inglese che gli ho subito mandato. Forte, stiamo seminando Speciali, bene. Mi sta dicendo che abbiamo creato un mostro. Pier Mario, buongiorno. Io tra l'altro voglio raccontare questa cosa ai nostri ascoltatori, che Pier Mario, a conclusione del suo percorso con il suo nuovo stile di vita alimentare, anche un po' economico poi, perché abbiamo fatto anche il carrello della spesa, ci ha mandato un report, direi quasi imbarazzante per la professionalità con cui è stato scritto, con cui ha vissuto queste 8 settimane, i risultati che questo suo nuovo percorso ha prodotto. Pier Mario, intanto mi dica, non è che ha recuperato un centimetro di giro vita? Perché ecco, ne ha persi vostro, buongiorno. Buongiorno. No, ne ho perso uno, e rispetto al report sono a un chilo abbondante in meno ancora. Continuo. E lei è contento? Tanto mi ricordo se ci davamo del tu, Pier Mario, sì, in realtà siete diventati amici, Pier Mario. Allora, Pier Mario, allora, over 50, seguito da Attilio Speciani e Andrea Ribaldone, che peraltro è stato anche qui a trovarci nel nostro stand qui di Expo. Ci dica un po' come sta andando? Allora, è andato benissimo. Io direi che quello che mi ha stimolato molto è stato lo spirito competitivo di questa iniziativa rispetto a tutte le diete che avevo fatto in precedenza, e devo dire sempre con successo, ma questa mi è piaciuta particolarmente. Difatti, più che dieta, oramai lo chiamo stile di vita, come è già stato citato altre volte. I nutrizionisti sprecano, versano fiumi di inchiostro e tante parole nel cercare di trasmettere questo concetto. La dieta è un concetto veramente ormai completamente tramontato. Parliamo di stile di vita, di stile alimentare, che è quello più moderno e quello più azzeccato, Pier Mario. Quindi grazie anche a lei per averlo ricordato. A te. Sì, sì. E in più voglio dire che lo stimolo maggiore di tutto quanto è stato il fatto di lavorare in positivo e non in carenza e in negativo. Questi sono due aspetti che voglio sottolineare. E quindi ci dobbiamo risentire. Allora, oltre al fatto, Pier Mario, che magari adesso dai un po' di tregua al dottor Speciani, qualche settimana lasciamolo tranquillo, visto che si va in vacanza, poi ricominciano a tempestare di messaggi, anche noi, facci sapere come va, se riesci a perseverare in questa nuova strategia di vita, chiamiamola così. Grazie molte per avere così attivamente partecipato al nostro reality. Vorrei andare adesso rapidamente ad un'altra grande amica di Cuore e Denari, perché Laura, della coppia di conviventi, oltre ad aver partecipato a Cuore e Denari Expo, ci scrive tantissimo su anche altre sue cose di vita, e questo ci fa, Laura, molto piacere, della coppia di conviventi seguita, quindi insieme a Gianni, al suo Gianni, dal dottor Franco Gonfalonieri e dal cuoco Silvano Ghezzi. Il tuo bilancio, esatto, Laura, qual è ad oggi? A che punto sei intanto? Buongiorno a tutti intanto. Sì, vabbè, lo sapete, effettivamente io sono proprio la vostra fan numero uno. Comunque sì, il mio piatto preferito che ho scoperto è stata la minestra di fave, che forse ho esagerato anche su Facebook a pubblicarla. No, ma è stata proprio una cosa molto bella, perché comunque una semplicità esagerata e poi proprio nutriente. E poi vabbè, tra le cose dolci c'è stato lo zabaglione, che wow, io non l'avevo mai mangiato. E basta. Quindi, poi, vabbè, tra l'altro, visto che lo stile alimentare nuovo, non c'è niente di proibito totalmente. No, poi penso che noi siamo stati veramente più fortunati. Io li ho letti tutti i menù, credo che il dottor Confallonieri con noi ha proprio chiuso tanti occhi. Ma Laura, poi che risultato concreto hai raggiunto? Non lo so, perdita di peso, di centimetri, ti senti più tonica, più lucida, che cosa è successo? Gianni è dimagrito, no, io sono ferma, però vabbè, è una mia caratteristica, ma io sto bene, mi sento leggera, non mi sento più gonfia. Poi vabbè, comunque ho imparato tanto anche a differenziare, proprio come i denari, come suggerisci tu, Deborah, ogni tanto, quasi sempre. differenziare nell'alimentazione a quanto pare proprio importantissimo e l'avevo trascurato. Laura, grazie, continua grazie anche tu a scriverci, a metterci al corrente di tutta la tua quotidianità. Un primo commento su Pier Mario e Laura, dottor Speciani? Ah, devo dire, intanto Laura, che è una strepitosa fan, ha sicuramente del buon gusto, per questo lo possiamo dire sicuramente. e poi devo dire che tra tutte e due la cosa bella e importante è che le diete, i suggerimenti nutrizionali portati da Confalonieri, da Gaetti, piuttosto che da me, da Ribaldone, in realtà hanno delle diversità. Vedi come ogni persona, questo è il mio criterio, ormai io sto lavorando su un concetto di dieta individuale nella mia professione, sì. E questo è quello che traspare, cioè alla fine ogni persona deve trovare un rispetto anche delle linee guida fondamentali, che non sono però classicamente da libretta come siamo stati abituati per anni, devono essere fluttuanti, oscillanti, avere un range di oscillabilità, e credo che Laura e Pier Mario abbiano espresso nella loro adesione positiva, pur avendo delle componenti nutrizionali diverse poi da seguire, proprio questa percezione che qualcosa era adattato a loro, no? A un loro bisogno. E questa cosa io credo sia l'elemento fondamentale, che sarà anche una linea proiettata sul futuro per chi si occupa di nutrizione, sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista della preparazione dei piatti. Chiarissimo. Prima di sentire Luciano, padre della coppia con figli e seguito dalla dottoressa Lucilla Titta e dal cuoco Roberto Di Mauro, volevo fare una parentesi con lei, inevitabile, dottor Speciani, con qualche suo suggerimento per affrontare, adesso i telegiornali ci tempesteranno con tutte le raccomandazioni del caso per affrontare il caldo torrido, mettetevi sotto l'ombra, bevete molta acqua e quant'altro. Andiamo a dare qualche suggerimento che vada un po' oltre queste solite raccomandazioni di rito che ormai spero possano essere date, no, per scontate. Guarda, dottor Speciani, effettivamente è arrivato un po', questi 37-38 gradi sono arrivati in maniera un po' repentina. Sì, io credo che le tre cose fondamentali siano, anche perché le persone lo possono capire meglio, che l'acqua nell'organismo deve stare al suo posto, cioè dentro nei vasi e non nelle gambine gonfie. Quindi il primo suggerimento, che è anche un suggerimento che in questo periodo donne e uomini accettano sul piano estetico, è di lasciare solo verso le ore serali l'utilizzazione di cibi molto salati, quindi prosciutto, pane, cracker, grissini e cose di questo genere, dare la prevalenza invece a frutta, a verdura, cioè cibi che hanno dentro dei sali ricchi di potassio fondamentalmente, e addirittura sostengo spesso l'uso della patata al posto del pane nelle ore del mattino o del pranzo, le albicocche, i meloni, cioè sono sostanze ricche di potassio che ti tengono quindi, come dire, i liquidi dentro nelle arterie e nel sistema circolatorio, perché se inizi a mangiarti invece pane, cracker, grissini e biscotti, ecco che con le cose salate, certo, tendi a gonfiarti le gambe, a riempire gli spazi molli, come dire, e quindi ad avere la pressione bassa e ad avere un'alterazione poi del movimento, della gestione. Questo è il suggerimento più preciso, cioè di capire che nella giornata, durante le ore calde, si mangi frutta, verdura, eccetera, e si lascia poi alla sera, quando uno finalmente può mettersi con le gambe un pochettino più sollevate, semmai, e che fa un po' più fresco, anche a mangiare i cibi della tradizione italiana classica, ricchi anche di sali, di formaggi, di sale, in maniera più serena e tranquilla. Questo è il primo, secondo me. Esatto. Fra un po', secondo, tra l'altro, sì, secondo. Il secondo, ultimo, velocissimo, è che l'aria condizionata ruba un mucchio di liquidi. Quindi, quando uno dice adesso finalmente trovo il refrigerio e entri in aria condizionata, sparisce l'acqua, l'acqua che hai dentro sparisce, e allora bisogna ricordarsi di bere anche quando si è nel fresco, perché altrimenti poi uno esce nel momento in cui dovrebbe l'organismo affrontare il cambio di temperatura, non ha, come dire, proprio dal punto di vista meccanico la possibilità di sostenere, uno si trova inginocchiato per terra che barbella un po'. Lo si vede peraltro, non lo so, io che sono già un pochino abbronzata, lo vedo anche l'effetto che mi fa l'aria condizionata sulle braccia, che screpola immediatamente, giusto? Per cui esatto, anche da lì possiamo notare come ci disidratiamo al volo. Luciano. Pronto, eccomi qua, buongiorno, allora, a tutti e ben risentiti. Ci dica un po' quanto siete diventati belli e in salute a casa vostra dopo questa settimana. Intanto siamo in ferie e quello è già il lato positivo della cosa. Non si sgarra però durante le ferie, attenzione, esatto, che regime ecco. È il contrario, in ferie si può fare quello che non si fa quando si lavora. Bene. Abbiamo più tempo per stare insieme e più tempo per cucinare. Allora, dunque, i risultati di questo, di queste prime settimane di percorso, lei a che punto è peraltro, Luciano? Io sono a un ottimo punto, nel senso abbiamo seguito scrupolosamente quello che ci avete proposto. L'unica cosa che ci manca e che mio figlio, non il più piccolo ma Giovanni, mi fa notare sono i dolci. Nella nostra dieta non c'è neanche un dolcetto, mi ha detto Giovanni. Allora adesso lì faremo un piccolo check con la dottoressa Titta e con Roberto Di Mauro per capire se possono un attimo aiutarvi, accontentarvi, quantomeno i bambini, magari non i grandi, no? Luciano, però i bambini vanno. Facciamo anche i grandi che ne hanno bisogno anche loro. Ma vediamo comunque, se il dottor Speciani ci può dare subito un suggerimento in questo senso. Io sì. Devo dire che è stato, adesso no, non voglio mettermi al posto della Titta fondamentalmente, però una delle cose che caratterizza proprio lo spazio per cui abbiamo gestito con gli over 50 questo tipo di dinamica è che un paio di pasti o tre nella settimana in cui ci possa essere un dolce fatto bene secondo la tradizione, ben bilanciato con degli ingredienti sani, farina integrale eccetera, cioè ci sta mm-hmm. benissimo, e infatti non l'abbiamo inserito addirittura nelle ricette che abbiamo proposto. Questo benissimo. Non è un vizio, fa parte del fatto che la dieta individuale deve riconoscere anche i bisogni a volte sono anche dei bisogni di coccole, non devono essere sistematiche, ma alcune volte le coccole ci stanno. Certo. Luciano, le promettiamo che chiederemo alla dottoressa Titta, Roberto Di Mauro, di fare una piccola variazione alla vostra dieta. Qualche ultima osservazione sul vostro nuovo stile di vita? Il nostro nuovo stile di vita ci piace a tutti, ma anche i bambini mangiano volentieri tutte le verdure senza lamentarsi troppo, dunque direi continuiamo così. Ottimo, grazie anche a Luciano, alla sua famiglia, buone ferie. L'ultimo minuto lo dedico naturalmente ad Attilio Speciani, perché qua mi chiedono gli ascoltatori, e paradossalmente era anche una domanda che avevamo preparato. In estate, dottor Speciani, qualche aperitivo lo mettiamo in conto, no? Non superiamo certo le dosi permesse, non esageriamo evidentemente con l'alcol, perché non è proprio il caso. Che cosa ci suggerisce a questo proposito per così trascorrere questo momento di relax serale che tutti ci meritiamo, senza naturalmente fare un danno anche per la salute, per il nostro fisico? Io direi che le condizioni che caratterizzano qual è la quantità fondamentale, in termini scientifici si parla di unità alcolica che più o meno sono 12 grammi di alcol, e quindi vuol dire un piccolo bicchiere di vino oppure una lattina di birra piccola 330. E nei vari studi c'è discussione sul fatto che a seconda che uno sia uomo o donna, a seconda dell'etnia eccetera, ci possono essere da 2 a 3 unità alcoliche consentite come massimo giornaliero. Questo però, indipendentemente da questa discussione, io dico che nel momento in cui c'è un'assunzione alcolica, il fatto di prevenirla, ad esempio bilanciando la velocità con cui poi l'alcol viene assorbito, quindi il fatto di utilizzare delle noci, delle mandorle e qualche elemento che abbia dentro un pezzettino di grasso, quindi paradossalmente può essere un po' di pane e olio, capito, che può essere mm-hmm. utilizzato, però questo rallenta l'assorbimento, certo, quindi evita picchi glicemici forti e evita alcolemie improvvise. Grazie. Questo è uno dei trucchi più semplici e banali. Ottimo, dottor Speciani, io devo salutarla purtroppo, ma sono certa che prima di andare tutti in ferie la sentiremo di nuovo. Un grande abbraccio, grazie per essere stato con noi anche oggi. Cuore Denari da Expo termina qua, io rientro a Milano, ringrazio tutti, buona giornata.